Resistenza non è un nome, nemmeno una canzone, è un fiato di ragione per la vita che si fa. Resistenza e libertà. Libertà non è partito, libertà non è il potere, libertà non ha bandiere, libertà è la passione che uniti ci farà unità e libertà. Che tu trovi in quel che vive, uguaglianza e lotta dura contro quel che ci divide e che uccide l'unità, unità e libertà. Unità è fare insieme per salvare un cielo, un mare, una primavera, un fiore, e l'umano che già muore di violenza e di vita. Resistenza e libertà. Resistenza e libertà. Grazie. Grazie. Ciao Ivan.